el señor Tavares is proud to keep you warm. Bienvenidos a todos los vacos. Bring on your niggas, you won't believe what you're gonna hear. Pepe can show me that you can. Pepe can show me that you can. Pepe can show me that you can. Pepe can show me that you can. Bring on your niggas, you won't believe what you're gonna hear. .12, siamo un attimino in ritardo, ma non troppo rispetto ai nostri soliti canoni. Buona serata da Radio BAM, qui è Franz, con i suoi inseparabili Cischi e John Terrible. Gol, buenas noches. Per l'83esima volta, qui in diretta sul 98.6 di Radio Onda Tutto. 99.6, Franz. Oh, errore. Io non sarei mai stato in grado di correggerti. No, invece è 98.6. Vabbè, comunque, potete trovare tutte le... Sì, 99.6. Vabbè. Sì, sì, Franz, ce la facciamo, no, dai. Ce la facciamo, siamo reduci dal kebabaro, siamo reduci da una giornata in piscina perché il nostro co-conduttore Cischi stasera si è doppiamente laureato. Sì, Cischi, sì, Cischi. E quindi stasera la scaletta doveva farla lui, rigorosamente lui, portarsela da casa con tutti i suoi bei vinilini. E ma? Non l'ha fatto. Oh. Ah, perché non compro un vinile da quando avevo 20 e questo anni. È male. E comunque non l'hai fatto. Esatto. Avrei potuto portare Oops I Did It Again, tra l'altro. E invece no. Invece non l'ho fatto. Erano belli i pezzi che avevo scelto appena. Questa che state ascoltando è l'83esima puntata di Radio BAM, la trasmissione curata dalla fanzina BAM Magazine che trovate su www.bammagazine.it o su myspace.com/BAM Magazine, tutto attaccato. Lo trovate anche su iTunes e potete scaricarla semplicemente digitando Radio BAM su iTunes, è gratuito, potete abbonarvi, potete fare quello che volete. Fatelo. Tutti gli episodi di questa terza stagione, speriamo che ci sia una quarta, ma ne dubito, visto come ci siamo comportati quest'anno. Ma comunque ringraziamo i ragazzi perché i download sono veramente, veramente tanti. Esatto, sono tanti i download, Franz, sono tanti. È vero? Sì. Abbiamo toccato quota 200. È proprio vero, la gente, no? Con tutte le cose che tocchiamo, una volta tocchiamo anche 200 download. Eh? Esatto, quindi com'è? Nonostante tu non abbia portato stasera dei pezzi da suonare in radio per questa ultima puntata della stagione, erano tra fighi, cazzo. Perché la settimana prossima ci sarà la programmazione estiva di Radio Onda Tutto. Vi invito tra l'altro a seguire la festa di Radio Onda Tutto che andrà al solito parco, non mi ricordo, insomma, aspetta, eccolo qua. Area feste di via Serenissima a Brescia. Inizierà dal 12 al 28 agosto. Trovate tutte le informazioni sul sito della radio che è www.radioondaduto.org. Tra l'altro quest'anno ci saranno i Buzzcocks, ci saranno i NoFX, ci saranno i Baustelle, tra le Grazie Morti, Nina Zilli, Africa Unite, insomma, Gaslight Anthem, che non dovrebbero per nulla essere mali, ma io sarei già via. Buzzcocks. I Ricco Bellis, soprattutto. I Ricco Bellis? Cioè? Quei cazzoni senza arte né parte. Esattamente loro. Proprio che loro. Spero ti stiano ascoltando mentre stai parlando. Pensa a te. Comunque, nonostante tu non abbia preparato niente per stasera, andiamo a sentire uno dei tuoi pezzi preferiti, che è... Che è Everybody Likes o Loves, mi ricordo, Tu Cha Cha Cha. Di Sam Cooke. E te la dedichiamo. Il numero visto che stasera... uno in assoluto di tutta la storia della musica, senza ombra di dubbio. Everybody loves to cha-cha-cha. Little children like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. Ooh. Everybody likes to cha-cha-cha. Took my baby to the hop last night, and what to my surprise, when we got there, she hit me with the news right between the eyes. Yeah. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She couldn't, no, she couldn't cha-cha-cha. Ooh, my baby couldn't do the cha-cha-cha. I told her not to worry, they'd play some other dance. But we sat there for an hour and a half, and we never got a chance. Every song they played was the cha-cha-cha. Every song they played was the

who's holding her tight. But there's nothing I can say to make him go away. Well, I never cared too much anyway. Well, I guess that I'll forget her someday. So confusing, no time left, and I know I'm losing. Flash, and I think I'm falling down. Flash, and I think I'm falling. Crash, and my ears can't hear a sound. No use running away, and there's no time left to stay. Now I'm finding out that it's so. Buffalo Springfield qui sul 99.6 e non mi sbaglierò mai più di Radio Onda d'Urto. Franz, di ai nostri amici ascoltatori da quale album di Neil Young dovrebbero cominciare. Vabbè, qualsiasi album di Neil Young è buono per cominciare, ma io consiglierei l'album, anzi la raccolta da cui è tratto questo pezzo di Buffalo Springfield, ovvero uno dei primi gruppi di Neil Young, che è Archives, ovvero il mega raccoltone che è appena stato pubblicato su Neil Young, cronologico della sua storia musicale. È bellissimo, da cui ho tratto tra l'altro questa Burn dei Buffalo Springfield, tratta dal loro primissimo album, capolavoro assoluto del folk rock mondiale, un bellissimo. Invece il pezzo che siamo sentiti prima è sempre correlato a Neil Young, perché questo è il suo vero primo gruppo, gli Squires, molto molto influenzati dal rock and roll, dal beat, dai Beatles soprattutto, con I Wonder. Tra l'altro la curiosità è che questo pezzo di Neil Young, sedicenne o quindicenne, quello che è, si ritrova su un album di appunto Neil Young solista, che ti consiglio molto, che si chiama Zuma. Zuma. Questo pezzo qua nella versione Squire si chiama I Wonder, nella versione Neil Young si chiama Don't Cry No Tears. Vabbè, questo è così tanto per dire. Poi prima ancora degli Squires abbiamo sentito i Twistaroos dal loro primo album, che si chiama Twisted, pubblicato su CD per House of Rock, che è proprio l'etichetta di Caroline e Morten. Ecco, consigliaci un album dei Twistaroos da cui partire per questo, visto che è l'unico album da cui si può partire. Esistente, stupidone. La giovialità a bracche di questa trasmissione. Esatto. Comunque abbiamo sentito Tough Lover, i Twistaroos fanno in quest'album metà cover e metà pezzi originali. Potete sentirli su www.myspace.com/thetwistaroos con due O. E potete ordinarlo da www.house-off-rock.no tanto non ve lo ricorderete mai, comunque cercate House of Rock su Google e lo trovate. Tra l'altro pubblicato oltre al primo album dei Twister, così il primo album di Caroline and the Twits, abbiamo avuto Dio la benedica, sì. E anche la ristampa dell'ultimo album degli Yam Yams con alcuni pezzi riregistrati o remixati. Speriamo di avere qua talato su sia Carol and the Treats, Twister Rose, Yam Yams, anche per la prossima edizione di Radio Bam. L'avremo, Franz, l'avremo. L'avremo, ma intanto parliamo del fatto che siamo sopravvissuti non solo al Ghost Lake Party, ma anche al Festival Beat, alla 18ª edizione, e qui vorrei una recensione in un minuto di John Terrible. Fantastico, fantastico, fantastico. Super party, parte con il pool party addirittura, 2:30, 6:30, poi da John, fantastico, e niente. Ha suonato il cellulare, sì, al conduttore. Sì, sì, sì, veramente una cosa poco professionale. E poi dopo si va da John al Devil's Den per un aperitivo distruttivo con il concerto. Da fake John, esatto, perché il vero John sono io. Grazie per averlo ricordato. Se fossi qualcuno che non è stato al Festival Beat non avrei capito niente. Ma perché? Ma che pretese anche tu. Comunque, riassumendo, sì, è stato un evento fantastico, da quello che ho capito dalle tue parole. Ok, pieno di eventi, perché il pomeriggio si andava al pool party, poi aperitivo dal Devil's Den di Jean-Claude Ferrari, detto John, sì, poi c'era il festival vero proprio. Chi ti è piaciuto di questo festival? Vabbè, ovviamente i Sonics e ovviamente i Gravedigger, che erano i super ospitoni. Esatto. Sonics, come li hai trovati? Vabbè, nonostante l'età, belli e sprintosi, no? Perfetto, sì. Perché sì, molti anch'io l'hanno concordo, detto, mamma, sì, 60 sì, anni, sì, sì, nonostante... E chi non va al Festival Beat? Succhia. Che cazzo, sì, sì. A parte quello, comunque, è un evento a cui presenziare sempre, comunque, sempre, tutti, comunque. Perché è veramente tre giorni di divertimento, no, incredibile. Di non prendersi sul serio, perché comunque l'ambiente è molto rilassato, molto amichevole, non ci sono mai problemi. Però. Voglio vedere prendere sul serio gente che mi arriva in piscina con lo stivaletto di pelle e il costume. Voglio vederti vederli prendere sul serio. In ogni caso, avevamo intervistato Gianni Fusi nella puntata scorsa, che potete trovare scaricabile sul solito iTunes digitando Radio Bam. Potete trovare tutti gli episodi precedenti. Questa è l'ultima puntata della terza stagione di Radio Bam. Spero che ci sia una quarta, probabilmente a partire da inizio settembre. Sì. Tra l'altro, già adesso stiamo programmando la programmazione dell'Io Bar dell'anno prossimo. E c'è già qualcosa di sfiziosissimo, ovvero il 28 settembre ci saranno le MAFS, gruppo storico di Los Angeles, che Cischi non apprezza appieno, e proprio per questo dovreste la voce. E proprio per questo dovreste apprezzare ancora di più. E visto che Cischi non apprezza appieno e non ha portato i suoi compitini da casa, ce li andiamo a sentire con un pezzo da Blonder and Blonder, loro album problema classico. Li avevo fatti, ma poi me li ha mangiati il cane. Con le MAFS, con Sad Tomorrow. Oh sì. Go away with you. shoulders like I'm not even a man. So take you on, you give my soul back to me. So take you, do you hate me? It's been raining in my head. Why do you wanna change me? I forget who I am. You make me feel like crying, crying, sticking my head in the sand. So I'll take you on, you give my soul back to me. Bravi Tarantula Scott. Riverdance con Soul Taker, tratto da Tarantula. Oh sì, il loro nuovo album, il loro quinto, che tanto sta facendo parlare i fan del punk rock ramonesiano e che tanto sta facendo godere anche John Terry. Riverdance, che aspettiamo prima o poi in Europa, chissà se mai qualcuno ci riuscirà a portarli. Chi lo sa, godrò in tal caso. Esatto. L'album comunque si chiama appunto Tarantula, è il loro quinto. Doveva essere un album di outtake del loro album precedente, che si chiama Invasion USA, e invece sembra proprio essere molto meglio dell'album precedente. Grazie al cielo. Sono sempre un po' perplesso da queste cose, perché a me piacevano tantissimo i Riverdance all'inizio. Mi piacevano i Riverdance dei primi due dischi, li adoravo. Però secondo me non c'era bisogno di resuscitarli. Però vabbè, insomma, ha fatto comunque dei buoni album anche dopo. Ma questo due. Non è male, cazzo. Questo non è male, ma non sono i primi due, secondo me. No. Prima di loro i Beatnik Termites, e loro sì. Sì. Quell'album lì, il loro prima, Taste the Sand, da cui è stato questo Mary Lou, da cui, che abbiamo sentito appena adesso. Beatnik Termites, nonostante gruppo californiano. La castrazione del cantante. Sì. Che tra l'altro mi sembra sudcoreano. Sì, ha immigrato in California. Splendidi beach punk, ovvero sì, sì, sì. Grandi. Beach Boys velocizzati ancora più dei Ramones, però fatti con un attimino di ripiglio. Pare che registrassero masticando Big Bubble tutto, esatto, il tempo. Mentre prima di loro le Muffs con Sad Tomorrow, tratto da Blonder and Blonder, il loro album classico, che avremo il 28 settembre qui al Liobar. Ah, pensavo parlavamo sì dei Beatnik Termites. Assieme addirittura gli Squid Omelet. Squid Omelet, esatto. Io la forza maggiore, perché sarà la sera, la festa di Jean-Claude Ferrari del Davis Den, e quindi lo festeggeremo mettendo il suo gruppo di spalla alle Muffs. Bella, che inizieranno il loro tour italiano, il loro primo tour italiano, vero tour italiano da 15 anni, qui al Liobar. Grande serata. Alcune persone dall'Olanda hanno persino preso già i biglietti per venire giù al Liobar quella serata. Noi speriamo di essere qua e di avere ospite Kim Shattuck qui in radio con noi. Magari ci fa qualche pezzo acustico, magari anche no. Magari ci farà, io stavo già fantasticando, però. Invece no. Cristo. 99.6 di Radio Onda d'Urto. Cosa prevede adesso la scaletta, Fra? Alzate di volume, alzate di volume è... stylo e... È l'ultima puntata della stagione. L'ultima puntata, io Franz, sinceramente sono un po' commosso, perché è stata una stagione comunque grande. Ecco, bella, volevo proprio dirti questo. Tira un po' le fila. Le somme. Potevamo essere più professionali. La radio poteva cacciarci prima. Ma sì. Ma è stato bello comunque, perché abbiamo portato qua un sacco di ospiti. Sì, ci siamo divertiti un sacco. Abbiamo avuto ottimi riscontri, soprattutto adesso dal Franz, punto di vista... permettimi un inciso. Dimmi. Desert Caravan. Che è una trasmissione molto più professionale che non della nostra. In onda dopo di noi, perché forse siamo gli unici a chiudere la stagione al 13 di luglio. Tanto per cominciare, siamo gli unici a chiudere il 13 di luglio. Esatto. E quindi la professionalità è anche in questi aspetti che si registra. Due, se c'è. Poi, Desert Caravan ha portato qua ospitoni come il Franz Barcella. Te lo chiedo guardandoti dritto negli occhi, Franz. Ma guarda, secondo me Desert Caravan già di per sé fa cagare. È no, tutto l'anno che continuiamo a dire. È una gran trasmissione. E non ha, e probabilmente non ha bisogno di ospitare. Non ha bisogno di mascherare la loro incapacità di fare una radio. Così. Detto questo, sì, sono abbastanza soddisfatto. Possiamo fare ancora meglio. Sì. Possiamo essere meno ubriachi. Sono margini di miglioramento. Sono margini di miglioramento. Possiamo essere meno ubriachi, penso che sì. Ci dia ancora fiducia. È arrivato il conduttore di Desert Caravan. No, intanto ci salutano. Cazzo. E vabbè, insomma, questa 83esima fine di questa terza stagione di Radio Bar. Adesso, aspetta, sbilanciati un attimo. Dai, chi è stato l'ospite più figo che abbiamo avuto con il radio? Sbilanciati. Ma guarda. Figo non lo so, però è stato abbastanza divertente. Diplomatico, insomma. Quando c'è stato qua Caroline. Se non altro perché limonava altre tipe in studio. Ah, è vero. E ignorava il fatto che in radio non è che la cosa abbia particolari risvolte. Esatto. Se no, altrimenti, vabbè, ci sono stati tanti. Ci sono stati. Cazzo, Paul Collins. Paul Collins è stato emozionante. Sto bello, cazzo. Poi c'è stato Paul Caporino dei Moto. Moto. I Fivers, ho sentito l'altro giorno le registrazioni del loro concerto qua in radio. È stato molto, molto bello. Pensate che emozioni che abbiamo avuto. Era il tuo compleanno. Ti festeggiamo sempre per qualcosa. Sì. Grazie. Siete gentilissimi. Sul canale Tube Terrible trovate Leo Barrett. No, cos'è? Fivers e Leo Bar 6. Non andate sul canale Tube Terrible. Ma come no? Per favore, lasciatelo stare. Allora, bisogna spiegare a chi ascolta questa radio e non è tra di noi tre che esiste un canale di YouTube che si chiama Tube Terrible, gestito dal qui presente John Terrible. Cazzo. Che dal presidente John Terrible. Mito, cazzo. È da elogiare perché riprende tutti i concerti con la sua videocamerina. Sì. In un modo abbastanza discutibile. Perché elogiamo, John. Sembrava una specie di roller coaster a guardare comunque il video. Ma però devi andare su YouTube e cercare YouTube Terrible. Trovate tutti i concerti da qua a 6 mesi. Fatelo. C'è anche traccia di quella mitica serata con Caroline. Esatto, ci sono molte tracce. Fui sbattuto sul palco seminudo. Sì. Comunque, non perdiamoci troppo in cianciare. Parliamo degli appuntamenti quest'estate, perché ci saranno comunque anche gruppi in tour quest'estate, tra cui i miei attesissimi Son Volt, che suoneranno il 19, mi sembra, a Faenza o comunque da quelle parti, per un festival gratuito. Forse ci sarò. Son Volt, che sono nati da una costa dei Wilco con Jay Ferrer, volto classico dell'americana e del country e dell'alternative country, o come cavolo volete chiamarlo. Poi ci saranno ancora i Mark and the Spice, che saranno in tour in Italia a fine luglio. E allo qua si esulta, Shout. Sia allo Shout che da mille altre parti, tra l'altro anche a Osio Sopra il 31 luglio al Brem Beat and Roll. Assieme a quell'altra band di ritardati. Di ritardati e ai Remington. Okay. Ma che... questa band di ritardati che si chiamano i Miss Chain, credo. Esatto. Cioè Miss Chain, Remington e quegli altri band di Spagna, belga. 31 a Rosio Sopra per il Brem Beat and Roll, prima edizione. Che per i nostri amici leggermente in trasferta verso la California, se volete. Poi ci sarà il Spacco il Pettine Patti il 21 luglio a casa a Torre Boldone. Scriveteci. Io sarò al mare. Se volete sapere dove si svolgerà questa festa privata, franzcasanova@hotmail.com. Oh sì. Adesso ci siamo persi troppo in chiacchiera, quindi andiamo a sentirci Son Volt, che suoneranno ancora, che torneranno in Italia dopo tanto tempo, e noi ce li andremo sicuramente a vedere in Romagna, ma anche a Torino, dove suoneranno per il festival di Buscadero. Loro sono i Son Volt con Drown. Viva loro! Falling through the floor. Just as well to keep it. I get some game in store. You're with me now. We'll be again. Other points in between. And the cool, cool mornings turn the days to swim or sink. And living right is easy. What goes wrong? You're causing it. To drown. Didn't want. doesn't it drown? Does it make a difference now? You're causing it to drown. Silence knows you can't drown a heart. Happenstance is falling through the cracks each day. Too close now to change it. Whose goal is louder anyway? When in doubt, move on. No need to sort it out. You're with me now. We'll be again. Other points in between. I want to find the right side of you. Living right is easy. What goes wrong? You're causing it to drown. Didn't wanna turn that way. You're causing it to drown. Doesn't make a difference now. You're causing it to drown. Silence knows can't drown. What goes wrong? You're causing it to drown. Didn't want to turn that way. You're causing it to drown. It doesn't make a difference now. You're causing it to drown. Silence knows can't drown. We'll be right back. please do forgive me for all I've done wrong. I wish I never did what I've done. I'll make it up, girl, I swear from now on. We'll be together, together as one. I wish I could show you how sorry I am. I wanna change, yeah, I know that I can. Do forgive me for all I've done. I wish I never did what I've done. You are so beautiful, my darling, and you are way too good for me. You gave me all when I was falling, and all I gave you back is misery. Deserve you, don't go away, and don't ever leave me. Please tell me you'll stay. Please do forgive me for all I've done. I wish I never did what I've done. You are so beautiful, my darling, and you are way too good for me. All when I was falling, all I gave you back is misery. I can't believe what I became, but baby, I am so ashamed, and I have truly lost my way. But baby, never ever go away. .6 le frequenze di Radio Onda d'Urto, radio che regala rock e roll, soprattutto dalle 9 roll. Alle 10 del martedì sera, soprattutto roll fino a questa sera, perché da questa sera andiamo in meritata vacanza. Siamo Franceschi di Radio Bam, quell'altro è a fumare. Sono le 21:57 e stasera non va in onda dopo di noi Desert Caravan, perché è già in vacanza. Che fa, continua a far cagare, esatto. Salutiamo, no, comunque salutiamo Marco, salutiamo, che è un numero uno veramente. Ed è a cena adesso, non si sa con chi. Ha sopportato noi per una stagione. Ha sopportato noi per una stagione. Come la radio ha sopportato noi per come una stagione. Come la radio. Quindi massimo rispetto. Auguriamo a Marco che sia a cena con una bella figa, ma non abbiamo dubbi in merito. Tra l'altro, forse Desert Caravan, a differenza di noi, andrà in onda settimana prossima, il prossimo martedì. Quindi non è in vacanza adesso, ma comunque riprenderà le trasmissioni settimana prossima. Quindi continuerà noi invece a far cagare. Sì, esattamente. Continuerà a far cagare la settimana prossima. Ho capito. Mentre noi finiamo qua, riprenderemo la primo martedì di settembre, sempre che ci confermino la trasmissione e il giorno. Speriamo che ciò avvenga. Abbiamo sentito i Mark and the Spice con Misery, tratto dal loro primo album intitolato appunto Mark and the Spice. E l'ultima volta che hanno suonato al Milwaukee 50 Diner, uno che di è loro, circa un anno e mezzo fa, o due sì, anni un fa. Po' di tempo fa, uno di loro ha tenuto la cicca in bocca per tutto lo show e mi ha infastidito tanto che me lo ricordo ancora. perfetto. Speriamo non tengano allora ancora la cicca quando torneranno per 6 nuove date italiane a fine mese, iniziando dal 23 luglio quando suoneranno ad Arezzo, o meglio al Montevarchi, al Bierplatz. Il 24 allo Shout Festival di Verona, festival della Madonna che vi consiglio di seguire, e noi lo seguiremo. E poi ricominceranno con giovedì 29 al Titty Twister di Domo di Villa d'Ossola, a cui tra l'altro vorrei sottolineare ancora va tutta la nostra solidarietà, visto che sono in ballo con delle cause. Massimo rispetto per i Titti. Esatto. Nella Valle del Lupo. Per la questione di fine orario, concerti, esatto. Insomma, dopo Jack Oblivion sono venuti i poliziotti, sono venuti a interrompere il concerto di qua e di là, non si capisce perché. Chiunque questa nazione può fare il casino che vuole, i politici possono fare quello che cavolo voglio, invece noi, se facciamo concerti in locali che hanno l'autorizzazione, dobbiamo smettere esattamente a mezzanotte, senza dare fastidio a nessuno. Fight perché, for your right to party. Tu che sei doppio dottore, Cischi, spiegami perché in Italia dobbiamo sopportare cose del genere. Perché? Ci sentiamo John, cosa ne pensa, che è appena rientrato? Non ho sentito la domanda. Perché sono quindi dei... Che cazzo vuoi che ti dica? Perché sono dei quattro cazzo di rincoglioniti, di poteri forti che rompono i coglioni. Esatto. Cazzo di vuoi che autorità vuoi che ti pubblica dica io la mia teoria. Sentiamo un po', perché Marcello. In Italia comandano i vecchi. Sì. Sostanzialmente per quello. Quindi un vecchio di merda che vuole dormire in 100 città fa in modo che tutta la città non possa vivere. Sì, è una quindi merda. Quindi se sei vecchio, con tutto il rispetto che ho per i vecchi, perché veramente io ascolto musica da vecchi, quindi li capisco, andate a vivere fuori città e nessuno vi rompe che le balle. Cosa forzata questa frase. Però vabbè. Comunque, i Mark and Spice suoneranno il 29 al Titty Twister di Villa d'Ossola. Il 30 luglio, invece, allo Shake Fest alla Spezia, allo Shake Club. Il 31... L'abbiamo già detto, al Bram Beat and Roll House sopra. Grande Bram Beat and Roll. Insieme ai Remington e a Miss Chain and Brooklyn's. E domenica 1 agosto concluderanno le loro 6 date italiane a Casa delle Donne, ovvero casa di Gino delle Donne, noto personaggio della scena piacentina, fidentina. E noi vi saremo. E noi vi saremo, in provincia di Fidenza comunque. No, in provincia di Parma a Fidenza, casa di Gino delle Donne. È una festa privata, quindi voi non potete venirci, ma noi potremo andarci. Perché voi non siete nessuno. Prima dei Mark and the Spice abbiamo sentito i Mystery Girls con Musty Shade of Brown, storico gruppo del Michigan, di Wisconsin. Michigan. Prima ancora un altro gruppo di Michigan, ovvero i Goodnight Lovin' con Scary Bed. Prima ancora i Son Volt con Drown, che suoneranno presto in Italia a Torino per il Buscadero Festival. E a Michigan. A Faenza, dove io e Cischi probabilmente ci saremo il 19 luglio. Sì. E non vedo veramente l'ora. Ah, vero, vero. Sono le 22. No, siamo al mare, ma la sera siamo lì. No, ma è vero che non vedo l'ora, dove dire. Sono le 22.1. E chi ci fai ascoltare adesso, Marcella? Barci. Adesso andiamo a caso, perché non c'è Desert Caravan. Ah, ok. E quindi si va col materiale di John. Visto che questa è l'ultima puntata, okay. Festeggiamo, abbiamo mille birre, abbiamo tanta musica con noi, quindi ci ascoltiamo. Parliamo della prossima Ghost Lake Fest. Meglio la Beck's o l'Heineken? Heineken, tutta la vita. Ok. Comunque, piscia di gatto. La prossima Ghost Lake Fest, che sarà party, che sarà la numero 7, si terrà il 26 settembre. Sarà l'ultima volta probabilmente che potremo farla la Stella Maris a Sarnico. Speriamo. Speriamo di no. Di no. Ci saranno i Kidnappers, ci saranno i Rico Bellis, ci saranno i soliti DJ, ci sarà tanta gente, ci saranno tante emozioni, ma ci saranno soprattutto loro, che sono un gruppo americano molto chiacchierato. Sono i No Bunny. E ce ne anche No Bunny? Sì. Con Chuck Berry Holiday. Wow. Viva loro. Years ago on this very night, and I ain't never ever hit the road, Jack. That's a fact. I guess it's time or that I just let it go. She up and forward, show her just a walk right out the door. But there's still one thing I wanna know. Where did she go? In our world, the strangest things come to light. 89.6 di Radio Onda Tutto. Bravo Franz. Dovrebbe esserci in onda Desert Caravan come ogni martedì, e invece ci siamo in onda ancora noi di Radio Bar, perché Desert Caravan stasera non va in onda. No, no, no. Ci vuole qualcuno che vada dal Kebab Bar a prendere via. Aia. E andiamo avanti con una trasmissione random, visto che è l'ultima puntata della stagione. Fiesta! Dai, facciamo anche i complimenti alla Spagna, dai. Anche no, se mi non anche se mai i complimenti alla anche Spagna. Anche se mi duole tutto quanto, però glieli facciamo, glieli facciamo. È un argomento che divide queste. E il Nino Torres? Fanculo Torres! C'è tra l'altro, scusami, anche Casiglia, se fanno tanto questa storia qua che dell'aver baciato l'intervistatrice. La era sua un ragazza, bacino normale. Credo che voleva baciare la sua ragazza. Anzi, scusami. È stato un bacio casto. È stato anche un, esatto, essendo anche super mega gnocca, come mi suggeriscono dalla regia, ci mancava anche altro. Sì, sì. Cioè, l'avrei rispettato se avesse avuto la ragazza e avesse baciato l'intervistatrice così. Cosa allora, che tutti pensavano. No? Esatto. Io pensavo quanto bene. Io anche. E visto che non abbiamo portato altri dischi stasera da suonare, li porta John Terrible. Sì. Per una volta in questa terza stagione edizione, di Radio Bar. Stagione, versione. E quindi ci sentiamo i Queers con la sua preferita, che è chi? I Matter at the Wet. Wow. Per i Queers. She's down at the earth from above. And I miss all the places and the people I love. Well, I know I'd enjoy it. I would miss all the places and the people I love. So although I may go, I'll be coming home soon. I don't wanna live on the moon. I don't wanna live on the moon. I don't wanna live, I don't wanna live. I don't wanna live on the moon. Scorpacciata di Queers qui a Radio BAM, ultima puntata della terza stagione. Oh no! Abbiamo appena sentito Burger King Queen, tratto dal loro album Grow Up. Il più bello! È il più bello, John? Sì. Come sì? Sì. Motivami perché è più bello. Sì, è il più bello, ci sono le più canzoni più belle. Ovviamente belle. Se fossero state le canzoni più brutte non sarebbe stato più bello. Franz! Hai ragione. Tu, Franz, cosa ne pensi? Qual è il migliore di anche io questo? Anche io sono d'accordo. Allora, direi che probabilmente Burger King Queen e Grow Up sono l'opera migliore di questo. Burger King Queen addirittura. E My Gay Boy? Anche perché non si erano ancora bene cristallizzati in quel gruppo pop punk. Sì, è vero, punk rock, è vero. Mosche, erano un po' più avuto... glam, un po' più insomma diversi. La registrazione glam. Era più garage, più sporca, lo fai. Tanti dicono il primo alla fine lì, il, come cazzo si chiama? Il primo. Ah, i primi dischi, i primi singoli. No, no, vabbè, no, ci vede i primi singoli, cioè, tirati. Il primo. Stare qua a pensare a tutte le persone che dicono che la prima cosa di quel gruppo è sempre la migliore. Beh. Tu sei il capofila di quel gruppo qua, Franz Marcella. E ti do il pugno se osi. No, comunque sì, come si chiama il primo, scusa? No, quella che intendi te è la raccolta su Lookout che si chiama A Day Late. No, no, no, no, il primo. Come cazzo posso dirti? Il primo. Quello primo di quello. Si chiama Croa. No, sì. Scusa, il primo, quello con Monster Zero, come si chiama? No. No, quello lì. Quello è il primo? No, no, no. No. No, è dopo. Mi spiace, ma se ti prepari. Love Song for the Retarded. Se ti presenti. È uscito dopo Grow Up. È uscito dopo Grow Up. Se ti presenti impreparato a Radio Bam, per piacere, torna non alla prossima edizione. No, no, sono orgoglioso di non sapere la discografia di Quiz. Grow Up è il primo? Sì. 90. Io sono pensato che fosse il secondo. E lo dico con tre ottave sopra il mio. Nonostante tu oggi ti sia laureato in economia, non ti. Laurea in discografia in quirsografia. Ah, invece John Terrible è ferrato. No, comunque è vero, dai, quirs lì. Mentre tu non sai il pezzo prima, che abbiamo passato quello prima di Burger King Queen stasera. No, quello, da dove viene? Da dove viene John? The One to Live on the Moon. Un bel EP chiamato Today. Esatto, mentre prima abbiamo sentito ancora I Met Her at the Red. Sempre di Grow Up. Il stupenda, più bello, fantastica, fantastica. Assieme anche, dai, diamo. Nonostante Cischi pensi che Bubarella è veramente bella, però io. Dai, li mettiamo sullo stesso piano, dai. Look, mom and daddy, I think this one's okay. She's a punk rocker, hey, what can I say? Per chi fosse ascolta so in questo momento, vorrei rassicurare che Radio Band non è stata tutto l'anno così. Spesso è stata così, ma non tutto. Vabbè, ricordiamo la mitica puntata natalizia. La mitica puntata natalizia che vi invito a scaricare su www.bam-magazine.it è leggendaria. Non tanto da quanto è uscita male, anzi sì, per quanto è uscita male e per quanto eravamo qui la sera bene, è uscita bene. In cui dovevamo preparare la puntata natalizia. C'era Ghiacciolino Uomo Neve. E Snakey Santa. E Snakey Santa, cazzo, roba, no. Bella, quella è stata veramente figa. Scaricata. Cazzo, io non c'era. L'ascolterei anche adesso che ci sono 56 gradi qui adesso. In studio a Radio Onda. Tra l'altro rinfresca, pare. Rinfresca cosa? La se tu l'ascolti la abbassa di un paio di gradi la temperatura della tua stanza. Ma arriva a 54 in questo momento. Ma alza del 10% l'umidità, per cui ci perdi ancora. Io sono a piedi nudi. Vabbè, dopo aver fatto una scorpacciata di Queers, andiamo random e andiamo a sentire due gruppi principali di questa ultima edizione del Festival Beat. Sì. Sempre su richiesta di John Terrible, quindi nudi. Sonics e Grave Digger 5. Iniziamo con un pezzo classico dei Sonics che è The Witch. She's an evil chick. Say she's the witch. She got a long black hair and a big black car. I know what you're thinking, but you won't get far. She's gonna make you ill, 'cause she's the witch. Where she wants you better be careful before it's too late. Five, mio dio, Airy. John, sì. Parlami un po' di loro al Festival Beat. Vaffanculo, ho fatto 3 fantastici video. C'avevo in parte un tipo che dava fuori di matto. Gli ho salvato le chiappe perché c'era il butto fuori che voleva attraversare traseni e spaccargli il culo. È stato fantastico. Dato questo è un pezzo cover dei Music Machine. Perché loro fanno solo cover addirittura, esatto, giusto? Bravissimo. Pensa te. Vedo che incredibile. Hai imparato bene. Io non lo sapevo. Continuiamo questa ultima puntata, l'83esima della terza edizione di Radio Mam. Sono le 22:30 in diretta su Radio Onda Tutto. Ancora noi. Perché non c'è Desert Caravan. Che fa? No, che è bello, dai. Desert Caravan è bello. Un bel programmino stoner. Cagare. Ma non passi i River. Ci fa cagare. Che abbiamo già passato, ma passeremo ancora perché la scaletta adesso l'hai portata tu. Esatto, metteremo un pezzo di Storm che è... Esatto, che è Don't Let Them Beat My Baby. Sì. Do something bad. Baby, don't let it be, baby. Oh Seas con Ruby Go Home. Oh sì. E anche noi fra poco andiamo a casa, perché siamo quasi giunti alla fine di questa ultima puntata di Radio Bam, almeno per questa stagione. Già. E ragazzi, preparatevi, perché vi cacciamo la canzone dell'estate. Esatto, per concludere concludiamo in bellezza, perché abbiamo la canzone dell'estate. Non date retta a tutti quei programmi tipo Studio Aperto. Vabbè, Studio Aperto non possiamo nemmeno. A prescindere. Qualsiasi cosa sentiate in spiaggia, quelle non sono le canzoni dell'estate. Waka, la vera waka, canzone dell'estate non ce l'abbiamo adesso. Franz. Waka Waka non è la canzone dell'estate. E la Coppa del Mondo non è mai esistita quest'anno. Non, al di là del fatto che l'Italia abbia perso i mondiali, al di là del fatto che l'Italia sia andata in waka. E del fatto, esatto, e del fatto che la Spagna abbia vinto abbastanza meritatamente, tra l'altro. Continua a farmi ridere, Stefano. Il mondiale quest'anno non è avvenuto, perché è stata una merda. Meno male che io non ho guardato tutte le partite. Perché sì, guarda, meno male che non ho Sky Calcio. Era stata veramente una noia mortale. Bello, bello guardare il calcio col... Ma vabbè, sai che tra l'altro, entrando un attimo nel tecnico, alla fine, nella fase finale, erano riusciti un po' comunque a isolare la vuvuzela, perché si sentiva il colpo del calcio sul pallone. Tu non te sei accorto, ma io sì. Che culo, chiuso l'inciso. Fuori zero, tifoserie zero. Il bello del calcio, zero. Niente. L'attitudine così. Vabbè, ok, esatto. Parlo a Cischio del bello del calcio. Ciao. Poveracci, poveracci. 22 e 39 del 13 luglio. Siamo qua a morire di caldo, nonostante ci sia l'aria condizionata. Dobbiamo bandiera dirvi scacchi, arrivederci. Ragazzi, dobbiamo scacchi. Dirvi arrivederci, perché questa è l'ultima puntata stagionale, abbiamo ripetuto 39 volte. Ci siamo molto divertiti questa stagione, ringraziamo Radio Onda d'Urto per averci dato la possibilità di divertirci. Grazie. Qua, grazie Radio. Nei suoi studi, speriamo di essere ospiti di Radio Onda d'Urto anche l'anno prossimo, ma crediamo di sì. Ci date le ospitate incredibili. Vi diamo appuntamento alla festa di Radio Onda d'Urto dal 12 sì. agosto al 28 agosto. Ci saranno Guano Padano, Calibro 35, Anthony B, Trying Tiffany, Teatro 19, Buzzcocks, The Gaslight Anthem, Sick Tamburo, Zoo, no, il Teatro degli Orrori, 99 Possi, Big D and the Kids Table, Andrea Rivera, NoFX, wow. Tre Allegri Ragazzi Morti, Nina Zilli, Africa United, Baustelle con Perturbazione. Insomma, quest'anno un palco d'eccezione per la festa di Radio Onda d'Urto, area feste di via Serenissima Brescia. Venite. Ampio parcheggio su via Buffala ora, vicino al secondo ingresso. E all'interno della festa salamaia, pizzeria, ristorante vegetariano, bar, birrette, enoteca e libreria. Spazio bambini e quant'altro. Supportate la radio, perché, e supportate soprattutto questa festa, perché supportare questa festa significa supportare il rock indipendente, significa supportare le radio indipendenti, perché come sapete questa radio non ha pubblicità. E che altro, vi lasciamo con il pezzo dell'estate, ovvero i Surfing Lungs con Bubblegum Summer. Vi ricordiamo che durante l'estate potete scaricare tutti gli episodi precedenti di Radio Bam su iTunes digitando Radio Bam con il punto esclamativo alla fine. Fatelo. Saluto i miei co-conduttori di quest'anno, ovvero John Terrible e Cischi. Yo, ciao. Augurandogli di non tornare mai più in questi studi. Sì. Niente meno. Saluto che... voi spettatori, audio spettatori, come si dice? Ascoltatori. Oh, radio ascoltatori. Radio ascoltatori, bravo John. Mito cazzo. Vi ringrazio per aver ascoltato queste frequenze, per aver ascoltato Radio Bam ogni martedì sera dalle 9 alle 10, per aver scaricato la trasmissione su iTunes, visto che siete stati veramente tanti, praticamente gli ascoltatori si sono raddoppiati rispetto all'anno scorso. Surfing Lungs con Bubblegum Summer. Dopodiché vi lascio in compagnia della programmazione musicale di Radio Onda d'Urto. Ciao ragazzi! Alla prossima! Buona estate! Couldn't follow Jefferson or the Grateful Dead. All I We hold hands and then we ride out, maybe in the sand.